Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana, di una settimana lunga, lunghissima, che sembrava non finire più, che è iniziata lunedì come si era conclusa venerdì scorso, con un tonfo delle borse, della borsa, soprattutto italiana, poi il recupero, non totale, ma insomma il recupero che c'è stato, quando si è capito che la finanziaria si sarebbe provata in tempi rapidi, come chiedeva la Merkel, come chiedevano i mercati, come ha chiesto il Presidente della Repubblica. E poi oggi di nuovo un po' si balla, -1% Milano, con Mediolanum che perde il 4,50, Fondiaria il 2,80, Monte dei Paschi il 2,70, Unicredit perde il 2%, ancora Generali -1,60, Ubibanca -1,50%. Che cosa è successo? Niente, ossia c'è solo una forte attesa, Intesa San Paolo perde l'1,40%, c'è una forte attesa per i risultati degli stress test, ossia quei test che sono stati effettuati sulle banche principali dell'area euro per vedere come reagirebbero nel caso di una situazione ben più pesante sui mercati, un po' come il test che si fa a livello ingegneristico sui ponti sulle strutture, e questa tensione, questa incertezza penalizza le banche. In realtà ci sono anche titoli che vanno bene, Pirelli +2,70 come Saipem, e poi la Popolare di Milano che guadagna il 2,41%, ma anche il Banco Popolare guadagna il 2,20%. Chissà se qualcuno ha già avuto notizia dell'esito degli stress test. No, lo dico perché escono alle 6. Vediamo, Mediaset +1,85, Tod's +1,30, Luxottica +1,1, Snam Rete Gas +0,60%. Di cosa parleremo oggi? Complessivamente la borsa perde lo 0,90%. Mentre Parigi perde mezzo punto, Francoforte è invariata, l'America è invariata e Londra perde lo 0,3%. Di cosa parleremo oggi? Parleremo del rapporto dell'Istat sulla povertà, perché in tutto questo è uscito anche il rapporto che in qualche modo si lega al dato sull'inflazione di ieri. L'avete sentito, insomma, l'inflazione è tornata a crescere soprattutto sui generi alimentari e sui generi di prima necessità, e siamo ai massimi dal 2008, ma si lega anche, e lo dico senza nessuna voglia di populismo, all'intervista che faremo dopo, e cioè ricordate mercoledì cosa è successo con gli avvocati in Parlamento che hanno minacciato di bloccare la finanziaria nonostante l'Italia fosse a un passo dal baratro se non veniva levata la norma sugli ordini professionali che li riguardava, e così poi è stato. Ebbene, abbiamo raggiunto il primo firmatario di quella raccolta di firme che diceva: o eliminate la norma che leva l'ordine degli avvocati o noi non firmiamo la legge. Siccome sono 87 solo i deputati e un'altra quarantina i senatori avvocati, il governo ha dovuto cedere, e noi abbiamo criticato moltissimo, non tanto la sostanza, uno può essere tranquillamente in disaccordo, ma il ricatto con un paese in ginocchio, pronto a essere bastonato di nuovo dai mercati finanziari. Ci è sembrata una cosa da corporazione medievale. Avremo ospite il primo firmatario di quell'appello, un avvocato, l'avvocato e onorevole Paniz del Popolo della Libertà. E poi un grande ritorno dalla povertà agli ordini che si autotutelano, e non poteva mancare oggi l'astrologa. Quando chiudiamo la parte estiva, abbiamo avuto in questi giorni qualunque tipo di ospite, straniero, italiano, politico, economista, broker, investitore, è giusto anche capire che cosa dicono gli astri, visto che qua mi sembra che le agenzie di rating ci becchino, per così dire, e in sostanza le spiegazioni più varie si sprecchino. Molti di voi ci hanno detto: ma insomma, quando è che intervistate l'astrologa? È venerdì, fa caldo, la gente vuole andare in vacanza, chiudiamo anche con l'astrologa, tanto male non può fare visto come si comportano i professionisti del settore. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Come sempre, aggiornamento sul petrolio in rialzo, $96,25 al barile. Tra l'altro, oggi verso le 17 sta iniziando a parlare Barack Obama, dovremmo avere altre indicazioni dall'America sul debito americano, dopo che ieri Standard & Poor's ha messo sotto osservazione il voto al debito degli Stati Uniti, ha detto in maniera molto netta: abbasseremo il voto americano, che comunque è molto alto, e in tre mesi comunque abbasseremo il voto se non vi sarà un accordo tra repubblicani e democratici sul tetto del debito. L'accordo sembra esserci perché la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà la prossima settimana un piano di tagli, di tetto e di riequilibrio. Comunque dovrebbe passare alla Camera dei Deputati o Camera dei Rappresentanti, ma è molto probabile che venga bocciata al Senato. E poi, sempre dall'America, la fiducia dei consumatori americani è caduta a luglio a 63,8 punti, l'indice quello dell'Università del Michigan. Le previsioni erano di 72 punti e comunque a giugno erano 71 punti, un calo molto brusco e dovuto comunque ai problemi americani sul fronte del debito. Poi però invece c'è chi festeggia Wall Street, perché stanno iniziando a uscire le trimestrali e Citigroup ha un utile che supera ogni previsione. Chissà come l'avrà fatto, magari ricorrendo a strumenti derivati, magari sui CDS, magari con molta leva, perché insomma mi sembra che siano tornati tutti a fare le stesse cose. 3 miliardi 340 milioni di dollari per Citigroup, record appunto dell'utile, più 24% a un dividendo pari a 1,09 dollari per azione. Ieri JP Morgan, anch'essa più 13%, migliore di ogni stime, 5 miliardi e mezzo di dollari di utile di JP Morgan. Io non so se in America prima o poi si porranno il tema di chiedere anche un contributo alle banche d'affari che sono state salvate dal governo americano quando erano in ginocchio e che stanno macinando utili da metà del 2010 praticamente, e che hanno causato lo scoppio di questa crisi. In dettaglio lo so, però. Poi c'è l'editoriale del Financial Times, che ha fatto molto discutere in Italia. Scrive infatti oggi il Financial Times in prima pagina: per convincere i mercati che l'Italia è credibile c'è bisogno di più che un semplice pacchetto di austerità. Roma deve mandare un chiaro messaggio di intenti. Idealmente questo potrebbe essere la rimozione di Silvio Berlusconi, primo ministro, e la sostituzione del suo esecutivo con un governo di tecnocrati, quindi un governo tecnico. E però nel frattempo lo spread, la differenza tra quanto rende un nostro BTP e l'equivalente tedesco. Ricordiamo sempre che più rende un BTP, più è a rischio il paese che lo emette, perché vuol dire che devi pagare più soldi, più interessi per trovare qualcuno che ti compri il debito. Dicevo, la differenza è di nuovo volata oltre i 300 punti, a 302 punti, eh? Attenzione. Banca d'Italia, il debito europeo, dice la Banca d'Italia, crea incertezza sull'economia. Le stime comunque sono per l'Italia verso un calo dell'inflazione a fine anno sotto il 2%. Dice la Banca d'Italia, l'occupazione ristagna, il lavoro è solo flessibile, quindi quel poco di lavoro che c'è è tutto lavoro precario e quindi flessibile. E occorre fare un passo verso il consolidamento dei conti e per arrivare a una crescita del paese. Una buona notizia arriva dalle entrate fiscali, più 5% nei primi 5 mesi dell'anno a 145 miliardi di euro. E poi, come avete sentito, la Camera ha votato la fiducia alla manovra, 316 sì, 284 no, 2 gli astenuti. Ancora due notizie, poi passiamo al primo tema. In Europa il mercato dell'auto è tornato a calare nel mese di giugno, meno 8%, Fiat meno 8,4% come gruppo, la quota Fiat resta però stabile al 7,3%. 349-238-6666 per i vostri sms. Scrive un ascoltatore, ma insomma non le va mai bene. Se le banche d'affari americane perdono i soldi, sbagliano. Se guadagnano, sbagliano. No, meglio che guadagnino, per carità, però guadagnano un po' tanto, se posso dirlo. Ossia, i bonus dei manager delle grandi banche d'affari americane sono tornati già a inizio 2010 ai livelli record. Gli utili di queste banche sono tornati ai livelli record. Il sospetto che non ho io, ma che hanno moltissimi nostri ospiti, è che siano tornati a utilizzare gli stessi strumenti che ci hanno portato al crollo del 2008 e che questi utili siano il frutto di rischi impropri che queste banche vanno ad assumersi, speculando, utilizzando leva su leva. Questo è il dubbio. Dopodiché, secondo me, visto che i cittadini americani, e non solo, le hanno salvate, forse qualcosa potrebbe anche essere chiesto a queste banche d'affari che, ripeto, vanno a botte di 3, 4, 5 miliardi di dollari di utile ogni trimestre. Comunque, il primo tema, vedi un po' il caso, la povertà in Italia. Rapporto annuale dell'Istat, dopo il dato sull'inflazione di ieri, e insomma oltre 8 milioni di poveri in Italia nel 2010. Io vi invito, siccome quando parliamo di povertà c'è sempre qualcuno che scrive: ma come, la povertà, i ristoranti sono pieni, si sta in colonia in autostrada. Abbiate rispetto dei dati Istat. Non penso che l'Istat abbia come obiettivo quello di gufare sulla povertà italiana. Sono 8 milioni, ossia il 13,8% dell'intera popolazione, e la povertà relativa riguarda 2 milioni e 734 mila persone. E poi cioè, queste sono le persone che sono anche scese sotto la linea di povertà relativa, cioè quando per un nucleo di due componenti la spesa mensile è di 992 euro. Se sei sotto questo, vai in povertà relativa. La povertà assoluta invece riguarda 1.156.000 famiglie. Il record di poveri è in Basilicata. Oltre un praticamente stiamo parlando di un italiano su 10 vive o in povertà relativa o in povertà assoluta. In Basilicata addirittura il 28,3% delle famiglie. Se poi si guarda le famiglie, non al numero complessivo, secondo l'Istat in Italia è povera o quasi una famiglia su 5, e una famiglia numerosa su 2 nel sud è povera. Sentiamo in primo luogo, mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento, il professor Stefano Zamagni, che insegna economia politica all'Università di Bologna e alla Bocconi di Milano, studioso di welfare. Buonasera, professore. Buonasera. Un po' che non la sentivamo, per fortuna, perché poi lei viene sempre a parlarci di povertà, quindi quando non la sentiamo pensiamo che siamo tutti più ricchi, in realtà così non è. Sentiamo Linda Laura Sabatini, che è direttore centrale dell'Istat, al microfono la nostra Adriana Fracchia. La povertà è sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, ma la stabilità non riguarda tutta la popolazione. Sono più di 8 milioni i poveri, 8 milioni 272 mila, pari al 13,8% della popolazione. Di questi, più di 3 milioni sono quelli in povertà assoluta, cioè i più poveri tra i poveri, cioè quelli che non riescono a raggiungere un livello di spesa tale che gli permetta di comprarsi quel set di beni e servizi essenziali che servono alle persone per vivere dignitosamente. Ci sono state famiglie in cui la povertà è cresciuta di più che altre, è il caso delle famiglie numerose di 5 o più componenti, è il caso delle famiglie monogenitore, delle famiglie con membri aggregati, oppure le famiglie di 3 o più figli minori del sud, che addirittura arrivano al 47,3%. In sostanza diciamo che due ammortizzatori sociali fondamentali, la famiglia e la cassa integrazione, hanno fatto sì che l'impatto sulla povertà non fosse particolarmente devastante. Beh, questo è importante, nel senso che la cassa integrazione è uno strumento che ha funzionato benissimo, ahimè, quando è stata richiesta, perché è uno strumento quasi in automatico. E poi la famiglia, questo grande risparmio degli italiani, professor Zamagni, ne parlavamo anche l'altro ieri con chi ragionava sulla capacità dell'Italia comunque di avere un reddito e un attivo di bilancio dal punto di vista del risparmio privato. Mi dica una cosa, la situazione non è peggiorata, molti ascoltatori chiedono, ma quanto incide il nero? Nel senso che la Basilicata, per carità, è la regione messa meglio, sappiamo che al sud purtroppo l'incidenza del nero è anche altissima, cioè non vorrei che risultassero statisticamente povere persone che hanno invece un lavoro ma è nero. No, questo è vero, il problema del lavoro nero è una delle nostre piaghe endemiche. È vero che il lavoro nero per certi aspetti allevia la povertà, soprattutto quella relativa, ma l'allevia nel breve termine. Cioè, il lavoro nero è come la droga, che nell'immediato ti dà la forza di vincere chissà cosa, quali difficoltà, e poi ti arriva la... Perché? Perché il lavoro nero aumenta il reddito, ma non la capacità di reddito. Io faccio il lavoro nero oggi vuol dire nel breve termine, poi rimarrò escluso successivamente. Ecco perché bisogna togliere dalla mente dell'italiano medio, oltre che della classe dirigente, l'idea secondo cui il lavoro nero sarebbe una sorta di ammortizzatore sociale sui generi. No, il lavoro nero è una delle cause della nostra inferiorità, perché impedisce soprattutto ai giovani di sviluppare le loro capabilities. In secondo luogo distorce il funzionamento di mercato e in terzo luogo perché fa mancare all'erario quelle risorse che potrebbero essere destinate via spesa sociale a scopi produttivi. Sì, c'è un altro aspetto, professore, però ho capito quello che lei dice, dico semplicemente che bisogna vedere, perché poi nulla tenenti, mi dispiace dirlo, in alcune regioni italiane soprattutto statisticamente uno che non guadagna è povero, e questo sa va a sandir, però poi sappiamo che esiste un nero. Se guardiamo le dichiarazioni dei redditi, 18.000 euro lordi all'anno, la media di un gioielliere, anche i gioiellieri rientrano nei poveri in questo paese. Perché? Perché noi italiani siamo specialisti nella diagnostica, ma non nella terapia. Cioè, siamo bravissimi nel fare le diagnosi, tutti i tipi, statistiche, econometriche, sociologiche, eccetera, ma mai che una volta arrivi la proposta. Allora, come diceva un vecchio finanziere, siamo bravi in orale. Siamo bravi in orale. Bravo. Siamo bravi in orale. Nel caso di questi ore, quello che dice lei è vero, ma perché è così? Perché noi continuiamo a fare le indagini sul reddito e non sui patrimoni. Oh, allora, bravo Zamagni, il patrimonio. Il patrimonio, bisogna aggredire il patrimonio. Il gioielliere aggredire il patrimonio, aggredire il patrimonio no. Euro, è chiaro che rientra nei poveri con 18.000 euro all'anno, però andiamo a vedere se l'Agenzia delle Entrate dicesse a quel gioielliere, fammi vedere, e questo oggi a meno di casi rari è possibile, qual è la tua mappa dei beni patrimoniali. Ecco che allora bisogna cominciare ad aggredire i patrimoni, usare cioè le informazioni sui patrimoni per indurre, non dedurre, ma indurre dall'esistenza dei patrimoni una capacità di reddito che non corrisponde. Allora vediamo di capirci, professor Zamagni, io non aggredirei nessuno, neanche il patrimonio, perché il patrimonio uno se l'è conquistato con i risparmi della famiglia, se è frutto di evasione va colpito, ma se è un patrimonio non frutto di evasione non va bastonato. Altra cosa è dire che in questo paese, come spesso ricordiamo, si tassano troppo i redditi da lavoro e troppo poco i guadagni da rendita o da patrimonio, ossia quando questo patrimonio lo investi in borsa o lo investi in altre forme. Il reddito da lavoro è tassato fino a un 45%, non chi gli stessi soldi li guadagna investendo o utilizzando il suo patrimonio. Questo è il problema, e non mi sembra che in questa finanziaria, se non con la rimodulazione della tassazione sui guadagni da capitale, si faccia molto. Un'ultima cosa che vorrei capire da lei invece è che cosa si potrebbe fare in questo momento per la fascia bassa. Molti ascoltatori stanno criticando il fatto che le agevolazioni per i redditi più bassi siano praticamente saltate dalla finanziaria. Secondo lei, perché alla fine, dopo tante parole, bravi in orale, quando si arriva alla finanziaria, il conto è sempre il solito? Pensioni? Perché lavoro dipendente, pensioni, blocco del turnover, promesse di lotta all'evasione, che per carità qualche dato, qualche risultato lo danno, ma insomma sempre lì andiamo. Dunque, la risposta è molto semplice. Allora, nel novembre scorso l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna ha fatto un accordo con i comuni dell'Emilia Romagna che ci stanno del seguente tipo: voi comuni mi aiutate, a me agenzia, a scoprire gli evasori e sui soldi che io riesco a tirar fuori avete una percentuale con la quale andate a fornire i servizi alla fascia bassa dei cittadini. Ebbene, nei primi sei mesi di quest'anno le entrate sono aumentate del 37% nei primi sei mesi. Quello dell'Emilia Romagna è il primo esempio in Italia. Mi chiedo perché le altre regioni non fanno altrettanto, e l'Agenzia delle Entrate è in Emilia Romagna come è altrove. Vede che quando c'è un direttore, come il caso di direttore dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna, che ha le idee chiare, ma soprattutto ha la passione e la volontà di fare le cose, si possono fare. I comuni sono contenti perché in questo modo ottengono una partecipazione fino al 20% con cui finanziano, sono contenti i cittadini ed è contento lo Stato perché l'aumento delle entrate di cui ha parlato prima lei è effettivamente dovuto anche a questo fenomeno. Questo è un esempio. L'altro è quello di cambiare la politica sociale. La politica sociale deve mirare a migliorare le capacità di vita delle persone, non le condizioni di vita, perché se andiamo a continuare a insistere sulle condizioni di vita creeremo un esercito di diciamo dipendenti dalla compassione pubblica che rimarrà sempre nella stessa condizione. Ecco allora perché, volendo, con le risorse che un paese ricco, ricco come l'Italia, l'Italia non è un paese povero, e la ricchezza è mal distribuita e il reddito è ancora peggio distribuito, ma non è un paese povero, si potrebbe far fronte. Però dobbiamo liberarci dalle vecchie concettualizzazioni, da schemi logici che qualcuno, probabilmente anche i professori, hanno la loro responsabilità, perché non hanno il coraggio di dire queste cose. Si lavora sempre sulla diagnosi e mai sulla terapia. No, mi piace perché lei dice: da un lato basta con il lavoro pubblico, adesso traduco in maniera un po' brutalizzante, basta col lavoro pubblico utilizzato come forma di sussidio di disoccupazione per avere uno Stato poi inefficiente sia a livello centrale che a livello poi locale, e quindi è un dipendente che è sostanzialmente assistito perché tu gli dai il posto, non lo licenzi, ma lo stipendio è basso, insomma è un'assistenza indiretta, e dall'altro andare a utilizzare tutti i meccanismi possibili per stanare gli evasori, quelli grossi soprattutto, e il comune, si diceva una volta, lo sa chi evade. Poi però magari uno si ritrova Piero Stellino, con massimo rispetto, che sul Corriere della Sera parla di delazione, di stato di polizia. Ignora Stellino che l'Italia detiene il record per evasione a livello europeo, sono 200 miliardi. Grazie, grazie professor Zamagni, grazie quindi a Stefano Zamagni. Mi dica una cosa, ma mi sente ancora Zamagni? Sì. Come, dica. Una mia curiosità, ma quando io ricevo così tanti messaggi sul fatto che le autostrade sono sempre piene, i ristoranti sono pieni, questa povertà non c'è, lei come risponde? È solo un problema di... Rispondo che siamo 60 milioni in Italia e i dati che abbiamo ascoltato prima dalla dottoressa dell'Istat parlano di 8 milioni, quindi basta fare la differenza e si capisce, perché basterebbe rispondere: contemi tu mediamente in una sera quanta gente siede in un ristorante o apre le autostrade, si scopre che non sono certamente più del 35-40% della popolazione. Ma non è che i poveri stiano diventando invisibili? No, beh, chiaro, c'è, per essere completi, un altro fenomeno che è più serio, e cioè l'entrata e uscita. Cioè, mentre una volta si nasceva poveri, si moriva sostanzialmente poveri, oggi si può nascere appartenente al ceto medio, diventare poveri, rimanere per un certo tratto, poi riemergere, poi ritornare e così via. Cioè, il fenomeno della precarietà si riverbera non soltanto sul luogo di lavoro, ma anche appunto sullo status di povertà. Cioè, la precarietà è anche questo, che io posso diventare povero al tempo T0, poi dopo qualche anno riemergere e poi ritornare ad essere povero, ed è questo che evidentemente tarpa le ali alle soprattutto giovani generazioni, capito, che non riescono a programmare il proprio futuro. E neanche diventare blocco sociale, diciamo, tale da fare cambiare la politica, perché se uno poi fa un periodo di povertà, poi riemerge, poi la prima crisi si immerge, una specie di sommergibile, ha anche più difficoltà a costruire, diciamo, un blocco sociale in tal senso. Grazie di nuovo a Stefano Zamagni, meteo. pubblicità e poi la borsa che ha chiuso con un calo dell'1% e poi l'onorevole Paniz che ci spiega perché gli avvocati in Parlamento erano pronti a far bloccare la finanziaria, a far crollare la borsa e anche il paese pur di non far passare la norma sugli ordini professionali. ...17:41 di nuovo in diretta con Sebastiano Berlisoni. Adesso arriviamo all'avvocato Paniz, primo onorevole Paniz, primo firmatario di quell'appello che minacciava di bloccare la finanziaria se non si fosse elevata la norma sugli ordini professionali nel caso specifico degli avvocati. La borsa però prima di tutto, dai. Negativa il finale di seduta, -1% per Milano che è la peggiore, Parigi -0,66%, Francoforte invariata, Londra invariata, l'America +0,1%, calo, nulla di drammatico. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Pirelli +3% e Saipem +2,5%, però vorrei partire dalle banche perché fra 20 minuti usciranno gli stress test, almeno così dovrebbe essere, e abbiamo la Popolare di Milano +2,35%, anche il Banco Popolare +2,20%, mentre altri gruppi, e penso a Monte dei Paschi -2,30%, Unicredito -2,10%, Ubibank -1,70%, e poi Intesa -1,50%. Non è che qualcuno li ha saputi un po' prima i risultati? Beh, l'attesa degli stress test è stato proprio il tema della giornata. C'è da dire che le banche hanno vissuto una seduta abbastanza in altalena. Gran parte dei titoli, anche quelli che tu hai già citato e che hanno terminato la giornata in rosso, per gran parte della seduta erano in rialzo. Cioè, proprio sul finale, proprio appunto in attesa della pubblicazione dei dati, c'è stata una grossa ondata di vendite sui titoli delle principali banche italiane, che però ha colpito gran parte degli asset del nostro paese. Proprio di pochi minuti fa, che anche lo spread dei BTP rispetto al Bund subito prima dell'esito, cioè in questi minuti, quindi anche questo in attesa dell'esito degli stress test, è balzato a 307 punti base, quindi in deciso rialzo, che hanno colpito appunto queste vendite anche i titoli delle principali banche. C'è da dire che in base alle attese e anche alle dichiarazioni dei giorni scorsi del governatore della Banca d'Italia, tutte le banche italiane che partecipano ai test, sì, che sono Unicredit, Intesa, MPS, Banco Popolare e Ubibanca, dovrebbero averli passati, quindi non credo ci siano attese risultati negativi su questo punto di vista. La Popolare di Milano non partecipa agli stress test, oggi ha chiuso in rialzo, c'è da dire che era uno dei titoli che aveva perso di più negli ultimi tempi e comunque un esito positivo, sì, di stress test. Ok, andiamo più rapidi perché vedo già molti messaggi per l'onorevole Paniz e quindi sarà un'intervista diciamo interessante quella sugli avvocati. Dicevo però, Paolo, oltre ai bancari, tu hai ben spiegato come si sono mossi, va bene oggi il lusso, penso a Todd soprattutto +0,90%, ma anche Luxottica +1,5%, e va bene Pirelli +3%. Sì, il lusso è stato premiato oggi in tutta Europa, questa volta a scatenare gli acquisti sono stati i conti di bilancio della tedesca Hugo Boss, che a Francoforte ha fatto registrare un rialzo del 6,8%, tutti i titoli del comparto ne hanno approfittato, a Milano proprio quelli che hai citato tu, Tozzi e Luxottica, e soprattutto Hugo Boss ha alzato le stime sui risultati di bilancio e quindi ovviamente gli investitori hanno apprezzato. Per quanto riguarda invece Pirelli, qui c'è da dire che gli investitori hanno seguito le raccomandazioni di alcuni esperti che hanno motivato il consiglio di puntare sui titoli del gruppo su stime di una redditività in aumento nei prossimi esercizi. Alla fine Pirelli è stata la migliore tra le blue chip milanesi, ha chiuso con un rialzo del 2,96%. Mediaset e Fiat, perché Mediaset va molto bene oggi, +1,70%, rivede 3 euro per azione, 3,07 euro, e anche Fiat non ha patito il calo di matricolazione in Europa, anzi Fiat Industrial -0,23%, ma Fiat Auto +0,90%. Sì, per quanto del guada Fiat, il calo delle immatricolazioni è stato il tutto sommato in linea con quello del mercato, quindi da questo punto di vista non ci sono state grosse sorprese negative. Ha approfittato del buon momento di tutto il comparto, che a livello europeo è stato premiato dalle promozioni di alcune banche d'affari. Il Fiat ha guadagnato appunto lo 0,93%, ma tutto il settore è andato bene, il sottoindice europeo è salito dell'1,27%. Per quanto riguarda Mediaset, c'è da dire che il titolo aveva perso quasi il 12% dal 4 all'11 luglio, quindi si tratta in gran parte di ricoperture. Il settore delle televisioni europee oggi è sotto i riflettori e per quanto riguarda il riassetto manageriale annunciato da Sky con le dimissioni di Rebecca Brooks e il passaggio dell'ex amministratore delegato di Sky Italia Tom Mockridge alla guida di News International, c'è da dire che questo mette i titoli sotto i riflettori e quindi magari alcuni investitori hanno deciso di ricoprirsi sui titoli del comparto. Allora, migliori e peggiori in assoluto, Italy One Investment è un warrant, vabbè, più 11%, le buone società, ex di Pollone, più 11,70%, Metorios Capital, che immagino sia un fondo, Società di investimento, più 9,60%, Ross più 9,5%, Screen Service più 6,25%, oggi è il regno veramente dei piccoli, Caltagirone, eccolo qua, più 4,35%. Fronte opposto, Pininfarina meno 4,95%, Mediolanum meno 4,80%, Mediolanum ha anche le vicende giudiziarie, no? Sì, questo è quello che ha messo il titolo oggi sotto l'attenzione degli investitori e ha fatto perdere terreno, sì. E poi Milano Assicurazione meno 4,36%, RDB meno 4%, Unipol meno 3,75%. Scrive un ascoltatore, mi saluti Paniz, io cambio canale. Perché vuoi cambiare canale? Adesso con l'onorevole Paniz cerchiamo di capire perché gli avvocati erano disponibili a far saltare la baracca della finanziaria, quindi la baracca del paese, se passava la norma sull'ordine che aboliva l'ordine professionale. Avranno avuto le loro ragioni, a noi sembra che la minaccia fosse eccessiva rispetto all'oggetto di contendere. Intanto ringrazio e auguro buon fine settimana a Paolo Pronetti e a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, traffico. E poi cerchiamo di capire le ragioni, le sofferenze degli avvocati, 220.000 avvocati in Italia, 6 volte più che in Francia, 10 volte più che in Germania. Allora, come promesso, la vicenda che personalmente mi ha fatto anche un po' arrabbiare mercoledì, nel mezzo delle tensioni dei mercati e della finanza, la finanziaria ha rischiato di non essere approvata nei tempi che avevamo annunciato i mercati per un problema degli avvocati italiani e soprattutto di quelli presenti in Parlamento. E allora, lo ricorderete tutti, ne abbiamo parlato in diretta praticamente, mentre il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi invitava, come già il Presidente della Repubblica Napolitano, tutte le forze politiche a lasciare da parte così individualismi e ragionamenti di parte, e mentre la finanziaria cercava di subire un'accelerata dopo l'attacco all'Italia, al debito italiano e anche all'euro, alle 17:20 di mercoledì arriva la notizia che un gruppo di avvocati, deputati e anche senatori, avvocati notai, in realtà soprattutto avvocati del PDL, stava raccogliendo le firme, giunte già un'ottantina, per non votare la finanziaria se non fossero state eliminate alcune norme che riguardavano la riforma degli ordini professionali. Nel caso specifico, un emendamento all'articolo 39 bis che annunciava, prevedeva la liberalizzazione delle professioni con l'abolizione degli esami di Stato e degli ordini professionali. Appunto, questa e su questo si scatenavano e si concentravano le critiche di questi deputati che hanno detto a noi, finché non viene tolta la norma dal testo, noi possiamo anche non votare la finanziaria. Cosa è successo? È successo alla fine che con la mediazione, da quello che si è capito anche del Presidente del Senato Schifani, è stata eliminata la parte che riguarda le professioni che prevedono un esame di Stato, cioè per quelle professioni, per quegli ordini professionali non cambia niente, e poi il governo invece proporrà una liberalizzazione da trattare entro 8 mesi, quindi una cosa molto molto più morbida e anche così in qualche modo fluida, entro 8 mesi proporrà una liberalizzazione per quello che riguarda le altre professioni, quelle che non prevedono l'esame di Stato. Allora, dico subito qual è stata la nostra obiezione. Intanto però ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'onorevole Maurizio Paniz, che è avvocato, ha uno studio a Belluno. Buonasera onorevole. Buonasera a tutti, ecco. Ed è onorevole del PDL, se non ricordo male, ed è stato uno dei primi, o il primo firmatario di quell'appello, insomma, di quella raccolta di firme che girava in quelle ore. Onorevole Paniz, al di là del, poi entriamo nella norma abrogata e negli ordini professionali, però la domanda, come si diceva una volta, sta a monte. Con tutte le ragioni che uno può avere, e non mettiamo in dubbio che voi ne abbiate, ma vi è sembrato il caso di minacciare il blocco di una legge finanziaria su cui anche l'opposizione aveva detto va bene, andremmo a non fare ostruzionismo con tutte le borse che ci guardano, con i mercati, la speculazione pronta, e che già ha battuto la borsa italiana, come ci sono state voci di un possibile dimissione di Tremonti, di bloccare la legge finanziaria per gli ordini professionali vostri? A noi è sembrato il caso di intervenire in maniera assolutamente ferma per salvaguardare i cittadini italiani. Il sistema giustizia avrebbe subito un colpo mortale se fosse passata la norma nei termini nei quali era stata concepita. Gli avvocati, che in Italia sono 250.000 circa, da un momento all'altro con questa norma sarebbero diventati circa 800-900.000, perché tutti i laureati in legge avrebbero potuto fare pressoché immediatamente gli avvocati, senza nessun controllo sulla capacità minima, sulla professionalità minima, sull'essere in grado o meno di gestire una vertenza anche di pochissimo peso, con gravissimo danno per i cittadini, perché sappiamo benissimo che la professione forense tutela interessi significativi, tutela la libertà individuale molte volte, e sappiamo anche che molte volte le sconfitte dei clienti sono in realtà sconfitte degli avvocati, che non hanno sufficiente preparazione o sufficiente capacità di gestire la situazione. Allora, no, che l'avvocato debba tutelare il cliente fa parte del vostro codice deontologico, ci mancherebbe. A noi però è sembrato che in questo momento, in questo caso, gli avvocati stessero tutelando soprattutto se stessi, onorevole Paniz. Le spiego perché. 87 deputati sono avvocati e 47 senatori sono avvocati. Siete la lobby, l'ordine professionale più presente in Parlamento. Lei diceva 250.000 attualmente e sarebbe esplosa la situazione. Adesso arriviamo al contenuto, ma io di nuovo torno sulla prima domanda. Ho capito benissimo le vostre perplessità, legittime, i dubbi, i timori, le critiche alla norma, quello che volete, ma in ballo mercoledì pomeriggio c'era l'attenzione di tutti i mercati mondiali e della finanza mondiale per vedere se il governo italiano sarebbe riuscito a far votare la fiducia sulla finanziaria come va promesso giovedì e domenica. Voi siete arrivati al punto di dire per noi la finanziaria può anche non passare. C'è una dichiarazione di un suo collega avvocato che ha detto a noi non lo voteremo mai, dovesse cadere anche Tremonti, finché non ci cambino quella norma che riguarda gli ordini professionali. Ma non le sembra un po' troppo, visto la posta in gioco? Io rispondo delle frasi che ho detto, del comportamento che ho tenuto. Mercoledì pomeriggio era il giorno nel quale si dovevano discutere le eventuali modifiche al testo di partenza. Tra le varie cose che si dovevano modificare, secondo noi c'era anche questa. Secondo me, in modo molto ragionevole, come sono state modificate una serie di altre norme nell'interesse dei cittadini italiani, anche questa era una norma da modificare proprio nell'interesse dei cittadini italiani, e non solo, anche del mondo delle imprese, degli artigiani, dei commercianti, perché se il sistema giustizia andava a farsi benedire da un minuto all'altro attraverso un'assoluta carenza di professionalità dei suoi protagonisti principali, tutto il sistema stesso avrebbe subito un danno irreparabile. Paniz, ho capito, l'avete fatto per salvare noi, per salvare la giustizia italiana, che altrimenti sarebbe diventata inefficiente, invece in questo caso continua a essere molto efficiente, l'avete fatto perché vi sarebbero stati 800.000 passa avvocati, io continuo a credere nel mercato, ce ne possono essere anche 3 milioni, quelli bravi avranno clienti, quelli no. Allora, visto che siete stati così generosi e così attenti al nostro benessere di clienti degli avvocati e non, come avevo capito io, al vostro benessere di avvocati tutelati da un ordine, le chiedo ancora un po' di pazienza perché 2 o 3 domandine ce l'ho da fargliele. sulla norma dopo il GR. Però resti con noi, 349-238-6666 per i vostri sms. Sono colpito da tutto questo vostro sforzo afflato nei confronti dei clienti. Io mi ero sbagliato, pensavo che difendete solo la vostra lobby. Ho sbagliato, chiedo venia, ne riparliamo però dopo il GR, Paniz. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vi ricordo che siamo in collegamento con l'onorevole Paniz, avvocato di uno studio molto importante a Belluno, onorevole del PDL, primo firmatario di quella raccolta di firme che mercoledì, fatta da avvocati alla Camera e al Senato, ha minacciato in maniera molto diretta e anche chiara, devo dire, di non votare la finanziaria se non fosse stata levato un emendamento che prevedeva l'abolizione degli esami di Stato e degli ordini professionali. Così poi è stato, nel senso che il governo l'ha levato, e per cui non cambia nulla per le professioni che prevedono un esame di Stato, mentre per tutte le altre vi sarà una molto più blanda ipotesi di liberalizzazioni. Fra 8 mesi il governo proporrà una liberalizzazione. Insomma, nulla di fatto. Onorevole Paniz, io le ho spiegato la mia perplessità iniziale, che è quella, insomma, di tutto si può discutere, ma non quando c'è un paese sul baratro della speculazione finanziaria bastonato già per 2 giorni. Solo si può fare in altre sedi. Ma detto ciò, lei mi ha detto: con quella norma da 250.000 avvocati saremmo diventati 800.000, 1 milione. A parte il fatto che in Germania, in Francia sono mi sembra un quinto, e in Germania quasi un decimo, e quei paesi non mi sembra che conoscono chissà quale problema di diritto e di lunghezza dei processi. Ma anche se fossero arrivati 1 milione di avvocati, come capita per tutti i lavori non tutelati da ordini professionali, c'è la concorrenza, se aprono troppi bar, troppi ristoranti, troppi esercizi commerciali, alcuni chiudono perché non hanno abbastanza clienti. Cioè, anche per voi può funzionare il mercato, no? Il problema non era quello di avere 800.000 persone, perché gli avvocati importanti, gli avvocati bravi, non hanno nessun timore della concorrenza. Esatto, lei ha uno studio importante a Belluno, tanto insomma. Nessun timore della concorrenza, perché rispondo ai clienti con il mio impegno e con la mia professionalità, ma io sono qui in Parlamento per fare gli interessi dei cittadini e non posso permettere che milioni di cittadini si trovino ad avere difensori che non hanno un minimo di capacità, un minimo di professionalità, un minimo di conoscenza del quadro normativo, e quindi vedano sacrificati i loro interessi da un momento all'altro perché nessuno è in grado di tutelarli adeguatamente sul piano della conoscenza delle norme. Quindi il nostro intervento non era affatto a tutela di una lobby, se così si può dire. È un po' strano parlare di una lobby quando ci sono ben 250.000 avvocati, quindi una platea assolutamente enorme per scegliere. Era a garanzia e a tutela di milioni di cittadini italiani che hanno bisogno del professionista. In questo momento ci sono pendenti, come tutti sanno, circa 6 milioni di cause civili, altrettanti penali, sono 12 milioni di vertenze, vuol dire che più o meno sono coinvolte almeno il doppio delle persone, visto che le vertenze interessano qualche volta famiglie o aziende o cose di questo genere, e le pare che noi non ci poniamo il problema di tutelare 20-25 milioni di cittadini italiani? Ecco, sì, capisco il suo ragionamento. Lei stesso ammette che abbiamo una giustizia dal punto di vista civile in primo luogo, poi anche da quello penale, che fa acqua a tutte le parti. E allora le vorrei chiedere anche due cose, no, perché non vorrei che passasse: avremmo rovinato un modello efficiente di giustizia, un modello inefficiente che le dice sarebbe ulteriormente peggiorato, ma già inefficiente così. Mi dica due cose però. Lei era a favore, ha votato a favore per il reintegro del tariffario minimo per gli avvocati, quello che Bersani con le sue liberalizzazioni aveva levato, d'accordo erano i giovani praticanti e chi li rappresentava. In questo governo è stato di nuovo reintrodotto. Lei ha votato a favore su questo? È stato reintrodotto su richiesta degli ordini forensi. Appunto. Sì, è stato reintrodotto su richiesta degli ordini forensi. Se non ricordo male, è stato votato nell'ambito di un programma molto più ampio che prevedeva addirittura il voto di fiducia, se non ricordo malissimo. Quindi, come vede, abbiamo avuto un senso di responsabilità. Personalmente è d'accordo? No, personalmente non sono d'accordo, perché ritengo che il cliente debba contrattualizzare con il professionista il compenso, e che il professionista possa rischiare con il cliente l'esito dell'avvertenza. Su questo tema però lei sa ci sono moltissime discussioni perché qualche volta il cliente viene indotto a dei patti cosiddetti di quota lite che possono essere fortemente pericolosi per gli interessi del cliente. Quindi la norma sui salari minimi, sui compensi minimi costituisce spesso una garanzia per lo stesso cliente. Io personalmente sono dell'idea che sia più opportuna una liberalizzazione da questo punto di vista e che il cliente abbia tutto il diritto di contrattualizzare prima il compenso con il suo professionista. Ecco, un'ultima domanda che trae spunto anche dai messaggi che arrivano al 349-238-6666. Molti dicono che in realtà il motivo per cui la giustizia in Italia funziona così male è anche perché gli avvocati presenti in Parlamento fanno di tutto per giustificare il loro ruolo, cioè più le leggi sono complicate, meno fluide sono e più c'è bisogno anche dell'avvocato. Lei è d'accordo o no? No, sono totalmente in disaccordo. Io penso invece che l'avvocato bravo, l'avvocato preparato, l'avvocato con uno studio che funziona non vede l'ora di chiudere l'avvertenza per poter assecondare un altro cliente, quindi non ha nessun interesse a tenerla pendente. Per quanto mi riguarda, tutto quello che posso fare per far migliorare il sistema giustizia lo faccio molto volentieri. Credo che sia nell'interesse di un professionista capace che il sistema funzioni. È il professionista incapace che può avere interesse a un sistema che non rende. Vabbè, però lei dice, per quello che riguarda lei, assolutamente non c'è interesse a far durare il caso troppo a lungo. Secondo me molti suoi colleghi questo interesse ce l'hanno, appunto per i motivi che anche lei indicava. Una cosa, gli avvocati, figli di avvocati, sono come gli architetti e anche i farmacisti, cioè il 42% degli avvocati è figlio di avvocati. Ora, va bene aver posto il tema, addirittura aver minacciato di non votare la finanziaria se vi abolivano l'ordine, ma non sarebbe il caso ogni tanto anche per la vostra, per quello che poi è la vostra immagine nella pubblica opinione, porre il tema di una professione che comunque sembra sempre una professione che si tramanda e porre anche il tema di quello che è il salario minimo dei praticanti che spesso sono pagati o in nero o non pagati del tutto e porre il tema dei concorsi per diventare avvocato? Non è possibile che a Reggio Calabria si passi nella stragrande maggioranza dei casi, abbiamo visto anche cosa è successo recentemente, non sareste più credibili se poneste anche un tema di riforma al vostro interno invece che difendere solo l'ordine? Rispondo dicendo prima di tutto che non sono figlio di avvocati, che sono partito non da zero ma da sotto zero, che ho costruito partendo minuto dopo minuto soltanto con impegno e professionalità uno studio che oggi ha decine di persone al suo interno, che i miei professionisti, i miei praticanti sono tutti pagati con fattura regolarissimamente, di questo sono molto orgoglioso da sempre. Le rispondo dicendole che essendo in Parlamento dal 2001 sono stato protagonista del fatto che siamo riusciti a far ruotare la valutazione dei compiti per gli esami di avvocato che hanno costituito una ragione per una miglior selezione, opponendomi al fatto che venissero corretti nelle stesse sedi nelle quali si trovavano i singoli praticanti. Sono d'accordo che il praticante, se è in grado di dare un apporto qualitativo, possa essere, debba essere remunerato. Credo che il mercato da questo punto di vista, proprio perché libero e a maggior ragione se lo sarà vieppiù in futuro, possa costituire un premio per il praticante prima o il professionista giovane che vuole imporsi e che si dedica con energia e con capacità alla professione. Evidentemente sono totalmente contrario alle cosiddette rendite di posizione. Sono contrario alle rendite di posizione in qualsiasi campo, anche nel campo della professione forense. Senta, tutto sommato lei non ritiene però che, e mi dia la risposta fra un secondo, che se si continua così, che ogni volta che si parla dei farmacisti, i farmacisti sono contrari alle liberalizzazioni, gli avvocati contrari alle liberalizzazioni e via discorrendo, metto in mezzo anche i giornalisti, vedo i messaggi, da sempre sapete che in questo programma gli ordini professionali, a parte una funzione di censura e controllo, noi non li vogliamo a limitare l'ingresso in una professione, ma insomma non ritiene che questo paese tra i motivi della mancata crescita abbia anche le mancate liberalizzazioni messe in concorrenza tra i servizi oltre che le privatizzazioni, ma liberalizzazioni e sia un paese che ricorda ancora questa battuta che ogni tanto facciamo sentire, gliela faccio ascoltare? Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino! Si paga? un fiorino. No, scusi, sacco, doganiere. Scusi. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno. Io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, così aveva sempre un fiorino. Siamo due, tre, sempre. Ragazzi, arrivederci. Senta. Ehi! Hey! Chi siete? Ma vaffanculo! Cosa portate? Allora, se lo ricorda forse, avvocato onorevole Paniz, Truisi, Benigni, una scena memorabile. Sì, ma le rispondo volentieri, ricordando i dati che lei ha citato. Le pare che con 250.000 avvocati a disposizione, cioè 4 volte più che in Francia, 8 volte circa più che in Germania rispetto a popolazioni omologhe, non ci sia un'adeguata liberalizzazione del mercato e un'adeguata facoltà di scelta? A me sembra che la scelta sia assolutamente amplissima, mi pare che non ci sia una ragione per renderla ancora più ampia, però non ho nessuna difficoltà a renderla ancora più ampia, perché la scelta dei professionisti lasciata ai cittadini italiani garantisca loro un minimo di professionalità adeguato alla trattazione degli importanti affari che un avvocato deve saper gestire. Ecco, ma perché sono così tanti gli avvocati in Italia rispetto alla Francia e alla Germania? Secondo lei. Evidentemente perché non ci sono stati dei filtri a livello universitario, evidentemente perché non ci sono stati dei filtri adeguati a livello di ingresso nella professione, evidentemente perché ci sono state anche possibilità di assorbimento in un mercato che in Italia è caratterizzato da una forte litigiosità, però credo che tutti convengano sul fatto che sono troppi e che c'è una forte alimentazione della litigiosità che potrebbe anche essere rallentato se il numero non fosse così consistente. Ecco il sospetto che appunto per mantenere 220.000 avvocati poi si facciano anche leggi che consentono la litigiosità, ma è vero che siete una lobby così forte tra di voi, cioè al di là dei partiti, poi quando toccano la vostra professione vi ritrovate in maniera bipartisan, tripartisan? Lei la vede questa lobby interna che viene spesso citata? No. Francamente non la vedo, ho constatato soltanto che quando si tratta di assecondare interessi così giusti di moltissimi cittadini italiani ci possa essere una coesione, ma devo dire francamente che in un clima di generale conflittualità a me fa solo piacere che ci possa essere coesione tra destra e sinistra su argomenti che possono interessare i cittadini italiani in un numero così numeroso, anche quindi non la vedo come una situazione. No, sarebbe bella la stessa coesione anche sull'abolizione delle province, i costi della politica, la riforma, è un altro tema, non voglio tirarla in mezzo su questo, che la coesione c'è sempre per difendere l'esistente dalle volte. Comunque io la ringrazio molto per la disponibilità, grazie all'onorevole Maurizio Paniz, che oltre che essere onorevole del PDL è appunto titolare e ha fondato uno studio legale a Belluno, se non ricordo male. Grazie e buon fine settimana. Grazie, arrivederci. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu, mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Adesso lo mando al traffico, chiedo scusa ai colleghi, ma insomma volevo proprio... C'è chi scrive, lei si è fatto mettere nel sacco da Paniz, ma cosa devo fare? Sparargli? Così poi mi tocca prendere anche un avvocato e alla fine facevo un piacere all'ordine, alla lobby, ma per favore. E invece Cenerentola sta per introdurre un gradito ritorno, restiamo nella serietà del programma che abbiamo avuto fino adesso, parliamo anche di astrologia, grazie a Mirti, astrologa finanziaria, buonasera di nuovo. Buonasera a tutti voi. Devo lasciare il traffico, mi dica solo una cosa, esiste l'ordine degli astrologi? No, esiste un albo che però non avevo privato, dubbi, c'è anche quello dei gondolieri. Privato, vituperato, ignorato e adesso pure voi, fate anche voi un appello in Parlamento, ma mi sa che in Parlamento contate meno degli avvocati. Traffico poi mi dice le sue previsioni sui mercati, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni per l'ultima parte del programma. Ho detto la stessa serietà di prima, sì, perché era serio parlare con gli avvocati, ed è serio, dopo aver avuto in questi giorni Daniel Gross, Giulio Sapelli, Jean-Paul Fitoussi, Mario De Aglio, Alessandro Paterotti, Giovanni Tamburi, parlare delle previsioni sui mercati anche con Grazia Mirti, che di professione fa l'astrologa e rivendica comunque anche lei la necessità di un ordine. Allora, cosa ci disse l'ultima volta che è venuta la nostra ospite? Il 3 dicembre 2010. A primavera la situazione dell'Irlanda diventerà difficile e in particolare l'equinozio di primavera porterà nuove difficoltà per molti. Si verifica il fenomeno del cardinal climax tra pianeti che crea tensioni e quindi sarà un momento delicato. Senta, lei riceve fonti direttamente da Moody's e Standard & Poor's o è Moody's e Standard & Poor's che chiedono fonti a lei? No, guardo solo le effemeridi. Cosa? Guardo solo le effemeridi che sono che non le è una malattia del corpo, no? E basta. Le effemeridi cosa sono, mi scusi? Le tavole dei pianeti, con le posizioni scusi, di pianeti giorno per giorno. Scusi l'ignoranza. E cosa dicono le effemeridi? Le effemeridi. Poi qui davanti a me ho i temi dei vari paesi, della Grecia, del Portogallo, dell'Irlanda, dell'Italia, perché esiste un Book of World Horoscopes, serissimo e documentatissimo, in cui ci sono tutti i giorni e le ore in cui sono entrati in vigore i vari regimi. Allora adesso le lascio 3-4 minuti, che tanto spazio in radio, anche perché molti sono i messaggi al 349-238-6666, si dividono tra le accuse degli avvocati e l'esaltazione dell'astrologia, capisci dove va il paese, e mi deve dire che cosa capiterà nel 2011. Partiamo dalla Borsa di Milano, dall'Italia, sotto attacco dai mercati finanziari. Le do anche Magica Bula, così prepariamo il tutto. Prego Mirti, vada. Allora, per quanto riguarda l'Italia, l'Italia risulta nata naturalmente il 10 giugno del 46, quindi siamo gemelli con la luna Scorpione. Gemelli diversi. Vabbè, e abbiamo un po' di problemi ancora perché Marte sta continuando a camminare in gemelli e resterà in gemelli ancora per qualche settimana. La Borsa di Milano, che è fortemente acquario, sarà invece di nuovo in difficoltà, specialmente intorno al mese di ottobre, che sarà un mese un po' delicato, dato che ci saranno delle forti opposizioni. In più, Giove dal Toro si oppone alla luna scorpionica dell'Italia e quindi i pettegolezzi e i cattivi giudizi si sprecheranno. Ferma, un attimo. Ci faccia respirare, perché Giovanni Tamburi diceva invece che a ottobre riparte dal mercato. Lei dice che a ottobre la borsa sarà dura a ottobre. E la tenuta dell'euro complessivamente dal resto d'Europa? Secondo me dovrebbe essere abbastanza tranquilla, nel senso che nei primi di giugno c'è Giove che lo supporta e c'è un momento che è più difficile, che è quello dei primi 10 giorni di agosto, che coincide anche con una fase di nuovo molto difficile della Repubblica Greca, che è nata il 24 luglio del 74, quindi ha numerosi pianeti sui quali andrà appunto a sovrapporsi Marte. Cavolo, sono anche in diretta lavoro quei giorni, qui a Focus Economia. Vabbè, quindi i primi 10 giorni d'agosto di nuovo la Grecia. Di nuovo difficile per la Grecia, che continuerà a stare maluccio fino all'estate del 2012, che è anche un'estate di nuovo problematica per l'Irlanda. Parlo della prima parte dell'estate, quindi intorno al mese di giugno e luglio. E per quanto riguarda invece l'Italia, l'estate poi sarà un pochino più positiva. Mi dica solo una cosa, lei vede il voto a breve negli astri? Io non credo che ci sia il voto a brevissimo, no. Può darsi che tutto... Non ho valutato questo aspetto della politica. No, vabbè. E quindi non ho riflettuto sulla questione, che mi sembra comunque possa essere ancora procrastinata data la situazione economica internazionale. Beh, questo sì, non è l'unica a ritenerlo, anche il Presidente del Consiglio. Un'ultima battuta, quando è che secondo gli astri si uscirà da questa crisi? Secondo le agenzie di rating? Mai, però mi dica. No, io dico che a partire da metà novembre ci sarà una boucle lunghissima, anello di stazionamento di Marte nel segno della Vergine, che durerà invece dei soliti 2 mesi addirittura 8-9 mesi fino a luglio del 2012. Lì dovrebbero assestarsi delle cose. Allora, tutti a comprare quando, mi dica Mirti? Ma io direi tutti a comprare in ottobre, poi pian piano le cose migliorano. Vabbè, io intanto le auguro una buona estate, una buona vacanza, grazie. E crepi l'astrologo, vabbè, se potessi dire così anche lì. Grazie, no, se potessi dire bello questo. Crepi l'astrologo, crepi il giornalista, crepi l'avvocato. Vabbè, sono chiari segnali di esaurimento, da stanchezza. Comunque, attenzione, perché l'ultima volta la nostra Grazia Minti ci ha beccato un po' più di Moody's, se non si offende Moody's. Ringrazio Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Gaia Romani per l'assistenza in redazione come ogni settimana. Auguro a tutti voi un buon fine settimana, per chi non lavora e soprattutto a chi lavora. Noi ci risentiamo con Focus Economia lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.